la più vera felicità non sta nascosta sotto un sofà, non è un sorriso di raso fino, non è negli occhi di un roseo bambino, non è di sole, non è di mare, non è di ranuncoli o voglia di fare, non è di ambrosia, non è di miele, non è di nettare né di idromele, non è un cagnetto che gioca in giardino nell'ultima ombra segata di un pino, non è accarezzare un baldo vicino o sentire storie accanto a un cammino. Felicità negli anni 2000 è fare dobloni pila su pila. Felicità negli anni 2000 è fare dobloni pila su pila. Ma ammazza che è stato il mio gippone, però il mio trono da faraone. Ma cerca di brutto il mega schermone, però mi appaga le voglie guardone. E il mega stereo strafracassone mi fa sentire il re Licaone. Per ogni cravatta scuccio un milione, se no non mi manda in levitazione. Slippini di marca da ola in logione, lampade oli, liposuzione. E cambio i mobili in continuazione per tenere alta la mia omologazione. Felicità negli anni 2000 e fare dobloni pila su pila, fare soldi a scroscio senza alcun bisogno, e la solitudine è soltanto un sogno. Fare soldi a scroscio senza alcun bisogno, e la solitudine è soltanto un sogno. Però poi ti svegli ed è davanti a te, sorride dalla mano, ti offre anche il caffè. Con pubblicità e filmini vari, suggerire storie fallimentari, crescere figli fuori dai binari, carenze d'affetto che costano salari, frustrare tutti con balli e bellone, computer grafica, ricostruzioni, modelli che sedano le insurrezioni di chi non ambisce ai soli dobloni. Bambini tristi ed insoddisfatti si rende di più con i musi contratti da bella invenzione a schiavitù, papà doblone, buffo di voodoo. Felicità negli anni 2000 è fare dobloni pila su pila. Felicità negli anni 2000 è fare dobloni pila su pila. Fare soldi a scroscio senza alcun bisogno, e la solitudine è soltanto un sogno. Fare soldi a scroscio senza alcun bisogno, e la solitudine è soltanto un sogno. Però poi ti svegli ed è davanti a te, sorride dalla mano, ti offre anche il caffè. Per fare dobloni ci sono due vie, o il duro lavoro o dire bugie. O dare via la tua vita sociale, ed essere odiato da buon criminale. Che tu scelga un lato oppure l'opposto, sarai solo come un onnetto ad agosto. Non cediamo quindi alle cleptomanie, non serve poi molto a felice cinghiale.